tornò Riccardo Bizzarri, che noi c'avevamo ancora i complessi, negli chalet suonavano, c'era il cavallo matto, suonava un gruppo di San Benedetto che si chiamava Quelli con gli occhiali, dove ci fu una delle prime morti di eroina a Londra, che morì su una barca, il figlio Sannegomen, dove era un macello. E tornò Riccardo e disse: guarda, a Londra non sono più con gli strumenti, ma suonano con i dischi. Ed era una novità. E aprimmo il Sant'Antonio, si chiamava, sotto la villa di Duccio di Monte. Fu la prima discoteca, con i dischi proprio, si metteva i dischi.